Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti allo speciale viaggio tra le piccole e medie imprese in Italia. Oggi continuiamo il percorso nelle zone produttive del nostro paese e Voci di piccola impresa farà tappa una volta al mese nelle diverse regioni italiane per raccontare come le PMI siano radicate e legate ai territori pur esportando in tutto il mondo. Per la nona tappa del nostro viaggio ci spostiamo in Lombardia, dove per i 23 distretti tradizionali del territorio l'anno 2017 si è aperto con una ripresa delle esportazioni dopo un 2016 di calo complessivo delle vendite. Un'inversione di rotta che ha portato l'export a più 7,4%, un punto sopra la media nazionale. La crescita è stata del 5,8% nei mercati maturi, nell'ordine tedesco, francese, americano, spagnolo, inglese. Nei nuovi mercati le vendite sono cresciute del 10,6%, con la Russia che guida la risalita e poi Oriente e paesi arabi a seguire. Tra i protagonisti di questa risalita non solo i distretti alimentari come quelli di Cremona e Mantova, ma anche quelli della metalmeccanica come Brescia e Varese e il tessile, settore che raccontano le due storie di oggi. Con la prima storia facciamo tappa in senso ciclistico nel Bergamasco. Tra Bergamo Alta e Bergamo Bassa c'è molto da pedalare. Si tratta della storia di Santini Maglificio Sportivo. Nasce negli anni 60 grazie all'intuizione di Pietro Santini di specializzarsi nell'abbigliamento tecnico da ciclismo, grazie anche a una profonda passione per questo sport. Inizialmente l'azienda artigiana produceva abbigliamento conto terzi, oggi invece produce più di 3.000 capi al giorno ed esporta oltre l'80% della sua produzione all'estero. Ha scelto fin dall'inizio di rimanere in Italia e questo testimonia il forte legame tra l'azienda e il suo territorio d'origine. Lo spiega Monica Santini, amministratore delegato di Santini Cycling Wear. L'idea nasce moltissimi anni fa, in realtà nel 1965, da mio padre. Era un ciclista di poche possibilità di vittoria, diciamo, dello stesso anno e dello stesso territorio di Bergamasco, di uno dei più grandi campioni, Felice Gimondi, col quale è amico da una vita. Quindi ha corso da giovanissimo insieme, ha capito subito che non poteva avere le stesse possibilità di vittoria, e però ha voluto sempre rimanere molto legato a questo sport che adorava, e quindi ha cominciato a lavorare un po' con le sorelle per un caso fortuito. Le sorelle lavoravano come magliaia in casa e ha cominciato a dare una mano. All'epoca la maglieria di lana era quello che si utilizzava nello sport, perché c'era solo quello, e quindi ha cominciato a avere richieste dagli amici con i quali correva: perché non produci per me la maglia del mio gruppo sportivo e così via. Quindi in realtà il primo impatto che ha avuto la vostra realtà è stato un impatto locale, un tam tam, un passaparola e soprattutto un'attenzione da parte di chi intorno a voi, come dire, aveva delle attività simili o legate. Ecco, questo è il primo rapporto con il territorio. È stato grazie a questo che in fondo avete avuto la spinta per crescere come azienda? Sicuramente sì, è stato assolutamente legato al territorio, alla vicinanza, alla fortuna che comunque questo fosse un territorio con una storia molto forte legata al ciclismo. Proprio questo tipo di legame con le squadre locali e con la pista che c'è qui ad Almine ha fatto nascere uno dei primissimi brand legati al ciclismo. Qual è stato il momento in cui, diciamo, il brand è diventato veramente azienda e chi vi ha aiutato a fare questo salto? Vi siete aiutati da soli? Siamo aiutati da soli, perché comunque gli anni erano veramente quelli del boom economico, 1965. L'azienda è sempre stata un'azienda di famiglia. Mio padre e mia madre lavoravano all'interno della struttura e io ricordo da bambina, io sono degli anni 70, l'azienda per noi era praticamente la vita. Qual è il vostro modello di business? L'azienda fattura circa 16 milioni ed è cresciuta più o meno sempre a ritmi del 5, 6, 7% all'anno. Non abbiamo mai avvertito delle grandi frenate. Noi siamo un'azienda che è legatissima, come diciamo, al territorio, con i piedi ben piantati su Bergamo, ma che va nel mondo in oltre 80 paesi. Quindi quanto esportate? Avete dei piani di welfare all'interno? Che tipo di misure adottate un po' all'interno per facilitare, per le condizioni di lavoro, per rendere anche più produttive le persone? Su piani di welfare ci stiamo lavorando e stiamo ragionando, visto che c'è questa nuova apertura da pochi mesi, e sicuramente implementeremo qualcosa. Questa è un'azienda femminile all'oltre 90%, in quanto dalla proprietà, che sono due donne, io e mia sorella, alla maggior parte dei lavoratori che sono all'interno dell'azienda, che sono donne. Quindi ci serve sempre un occhio di riguardo, perché avere un'azienda così fortemente femminile significa anche avere un'attenzione nei confronti dei tempi e delle necessità di donne lavoratrici. Abbiamo applicato il VHP, quindi il tentativo di dare un'idea di welfare anche soltanto legata al benessere delle persone, sia dentro l'azienda che fuori l'azienda, e facciamo diverse cose per stimolare il benessere, quindi dall'attività fisica, che per noi ovviamente è un must visto il lavoro che facciamo, al mangiare bene e allo smettere di fumare. La sana vita è da sportivo applicata a tutti i dipendenti. Il brand, la promozione della Santini, dalle prime gare con l'altoparlante a Bergamo nella propria città fino ad oggi, quali testimonial ha avuto, quali tipi di promozioni ha avuto? Noi siamo sponsor ufficiali della UCI, cioè dell'Unione Ciclistica Internazionale, che organizza tutti i campionati del mondo e tutte le prove di Coppa del Mondo delle varie specialità del ciclismo da oltre 25 anni. Questo ci ha portato in tutto il mondo praticamente, oltre che da 20 anni siamo gli sponsor ufficiali del Giro d'Italia. Siamo anche gli sponsor della Vuelta, così come di squadre o grandi nazionali come quella australiana, per esempio. Lei ha incontrato qualche campione di persona? Qual è quello che l'ha più colpita? Ne ho incontrati tantissimi. A casa mia si è sempre mangiato pane e bicicletta. Uno di quelli che porto comunque sempre nel cuore è Marco Pantani, che noi abbiamo vestito negli anni della sua grandissima carriera professionistica nel 98, quando ha vinto Giro e Tour, e che è sempre stato un personaggio e una persona di grandissima delicatezza, e quindi lo ricordo veramente con tanto affetto. Quindi il mix di tutti questi elementi vi fa pedalare in maniera costante, in maniera anche addirittura accelerata per crescere. Quando un ciclista cade in gara non guarda nemmeno se si è fatto male, cerca la bicicletta e ci risale in sella immediatamente, a meno che abbia avuto veramente una caduta che ha creato qualche problema. Un tipico elemento che riporto sempre nelle nostre aziende, nella mia ma anche in tante bergamasche: non importa se si cade, l'importante è veramente ripartire a mille, quasi senza pensare mi sono fatto male, ma devo pensare dov'è il mio obiettivo, qual è il punto d'arrivo, e questa è una grandissima forza del nostro territorio. Facenti, azienda bresciana di riferimento del distretto della calzetteria lombardo, produce da quasi 90 anni calze per uomo e per donna. Ad oggi è una PMI non solo storica, ma anche innovativa, che riesce a esportare i suoi prodotti perfino in Cina. Nasce dall'intuizione imprenditoriale di Italo, che avvia un'azienda manifatturiera di calze nel 1923, e grazie alla sua formazione scolastica in Svizzera sceglie macchinari d'avanguardia. Ma come spiega Michela Facenti, terza generazione dell'azienda, ogni passaggio di testimone ha segnato una nuova fase produttiva. L'azienda nasce nel 1923 da mio nonno. Ai primi del Novecento è stato mandato in Svizzera per diventare un meccanico, per imparare a fare il meccanico sulle macchine per maglieria e macchine da calze, e lui inizia proprio come meccanico della macchina che allora era chiamata Invincibile, che aveva questo nome molto originale. Ha seguito questa strada perché il padre aveva un negozio in Piazza Duomo a Brescia, dove vendeva macchine da maglieria, macchine da calze. Il territorio è nel DNA della famiglia secoli, e ovviamente è importante anche il fatto che l'anima del commercio all'interno delle generazioni. Questa produzione di calze è sempre stata la stessa? Avete innovato? C'è un'ultima idea da raccontare? Di fatto io rappresento la terza generazione e io ho puntato sulla creatività e l'innovazione del prodotto, ma dando un tocco di femminilità. Mio padre ha innovato nelle lavorazioni e nelle maglie, perché è un perito tessile e ha prodotto il bambino, quindi la produzione del bambino con una maglia traforata, un articolo traforato che peraltro aveva chiamato magia, e che è un prodotto che ha avuto anche un discreto successo, e non solo, ma poi mio padre ha chiamato la sua barca vela, che era la sua grande passione insieme alla passione per le calze, con questo nome. Il territorio vi ha dato le professionalità, le mani, la lavorazione, l'artigianalità, e voi avete dato al territorio quanto è stato importante e quanto è importante anche adesso, per esempio, restituire, per esempio, in welfare rispetto al territorio. Anche se, voglio dire, una realtà molto piccola, quindi anche nel welfare io cerco di introdurre il welfare. Già qualche anno fa ho provato a fare anche un bando e purtroppo non è andato a buon fine, ma sto per riorganizzare un altro progetto in questo senso. Nonostante abbia sempre dato attenzione, avendo molte donne, ho sempre dato una disponibilità di orario, ho sempre dato elasticità nella gestione del lavoro, proprio in funzione del fatto che abbiamo esigenze, abbiamo una famiglia, io stesso ho due figli, anche se adesso sono grandi. Voi che settori avete intorno? Siamo nel distretto della calzetteria maschile, diciamo, dell'uomo, anche se ora si è sviluppata molto anche la donna, e abbiamo filatori, perché nella zona verso, diciamo, la zona nella Francia Corta, quindi nella zona di Rovato, è una zona invece storica per i filatori, e nel nostro distretto si sono sviluppate tante piccole realtà, tante piccole aziendine a livello proprio familiare negli scantinati, e si è sviluppato nel territorio una professionalità in questo senso che tuttora credo rimanga molto importante. Questa e altre storie in anteprima, inedite in versione long, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina di programma Voci d'Impresa e curiosando nella sezione Extra, dove potete scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, e il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.